conosco dall'inizio del liceo, prima degli esami, gli appunti in ateneo, quando facevamo in tempo a cancellare gli sbagli scritti a matita. Che vuoi fare da grande? Restare viva, amica, resta per un drink, solo un altro giro. Andiamo al bar di tuo cugino a scroccare il vino, ci buttiamo in qualche pub a fare karaoke con un brano di Tiziano fino a diventare rock. Non lasciarmi sola, resta ancora un altro po', non fare come il mondo che dice sempre di no. Abbiamo troppi sogni, troppi pochi cassetti, e i tuoi dove li hai messi? Anche se non saremo mai re, lanceremo sassi alle nuvole, questi muri parleranno per me. Voglio una vita super, mega, iper. Anche se non saremo mai eroi, non saremo mai come vorrebbero i tuoi, ogni scritta racconterà di noi. Dammi una vita super, mega, iper. Giro in periferia, fammi leggere tutte le scritte sui cavalcavia. Raccontami dei drammi, il capo è uno stronzo, chiamalo e digli dove può ficcare. Rendi conto, ti rendi conto che il nuovo cliché è dedicarsi ad una laurea ed imparare a portare caffè. Cadiamo dalle nuvole cercando il sole, mentre i sogni e le persone vanno in cassa integrazione. Quindi scarabocchiamo sui divieti, dimmi i tuoi segreti. Il mondo ti sta stretto, punta alle stelle e pianeti. Quale vie si fanno buie, chi ci conduce? Chi sa splendere quando va via la luce? Anche se non saremo mai re, lanceremo sassi alle nuvole, questi muri parleranno per me. Voglio una vita super, mega, iper. Anche se non saremo mai eroi, non saremo mai come vorrebbero i tuoi, ogni scritta racconterà di noi. Dammi una vita super, mega, iper. Anche se ci inventiamo le regole, il lieto fine dov'è? Ho visto i migliori appesi a un filo come gli aquiloni, e troppi campioni a cercarsi l'ombra sotto i lampioni. Abbiamo troppi sogni, troppi pochi cassetti, e i tuoi dove li hai messi? Anche se non saremo mai re, lanceremo sassi alle nuvole, questi muri parleranno per me. Voglio una vita super, mega, iper. Anche se